stiamo parlando fra un mese e abbiamo visto un mese fa dove eravamo e oggi dove siamo. Sicuramente se la situazione continua a migliorare in questo senso, non si vede l'ora di scendere in campo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Milan è come casa mia, vengo per aiutare, migliorare le cose, soprattutto l'ultima partita non era wow, ma obiettivi non è 100 metri sprint, è un marathon, si lavora, è un work in progress, bisogna lavorare tanto e credere. Hernandez in mezzo, Ibra al volo, rete, è tornato Ibra e segna il gol del 2-0. Lo confermo e lo confermerò tutti i giorni che l'arrivo di Ibra abbia dato alla squadra ancora più spessore, ancora più personalità, ancora più attenzione, determinazione, convinzione, questo senz'altro sì. Castiglieco dalla bandierina, pallone verso Kessi sul secondo palo, Ibrahimovic! Ha segnato ancora lui! 2-0 per il Milan nel finale di primo tempo, il gol più atteso dai tifosi rossoneri. Il campionato deve ripartire, ma già perde un grande protagonista, cioè Zlatan Ibrahimovic, lesione al soleo del polpaccio, e quindi lesione al muscolo del polpaccio, non è interessato a tenere Achille come si temeva, però stagione presumibilmente finita qui per Ibra. Pierluigi Pardo, buongiorno, Radio Tweet, da dove partiamo? Partiamo dalla lettera I di Ibra, che però è anche la lettera I degli infortuni, perché certamente Ibra non è un ragazzino, cioè la sua elasticità e la sua condizione fisica non sarà quella di qualche anno fa, però il sospetto che questo stop di campionato e poi i ritmi frenetici e poi il caldo che sicuramente ci sarà possa influire sul tema della I degli infortuni c'è, sicuramente è un fattore. Sappiamo che ci sono allenatori che si sono anche detti contro i cinque cambi, segnatamente quelli delle squadre di bassa classifica che pensano che possa la rosa più profonda, ed è un ragionamento che ha un suo senso, però è che è un fattore, questo sì, è un fattore, il sì. Fattore Ibra, e adesso ne parliamo del Milan, la I di Ibra, ma la I degli infortuni che possono essere una delle chiavi della stagione. Temi interessanti, e sono i temi del giorno. Beh, dopo i Bulls di Jordan e ora Armstrong su ESPN, poi ne parliamo anche di questo documentario in preparazione, in programmazione anche una docuserie sulla coppia del secolo, Ordine Biasin. Buongiorno. Ah, eccoli. Buongiorno. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Poi chi? Da dare un annuncio ufficiale. Prego. Ho comprato una coppola per riparare dalle scottature la pelata di Biasin. Sì, perché io sono uscito al sole dopo 3 mesi e non ho badato a proteggermi e quindi sono completamente bruciato di testa. Vabbè, capita. Bella notizia. Comunque se fai la docuserie su Ordine Biasin non la guardano neanche i parenti stretti. L'ultima pancia. Bellissimo. Chi fa Scottie Pippen? Non lo so, però so che farebbero un episodio da Rose e Gabriele a Milano, sarebbe molto bello. Non c'è dubbio. Senti, Franco. Le posti chitaca. Franco, sì. Dicevamo di Ibra. Ibra Cadabra, sì. Già non c'è più, sparisce allora, nei problemi. Sì, no, ma voi fatelo il funerale, perché poi secondo me in qualche modo poi ritroverete con la bara che si apre, si chiude e si alza, perché secondo me oltre alla I di Ibra, questa te l'ha suggerita lui, immagino. Sì. Oltre alla I di infortuni c'è anche la I di invulnerabilità. Allora, intanto ieri si era capita una cosa, perché all'inizio sembrava le prime informazioni sbagliate, come sempre, che drammatizzano tutto, davano anche il rischio della rottura del tendine d'Achille. Sì. A me è passato, avendo avuto in precedenza l'esperienza con Beckham a Milano, avendo visto che era uscito senza le stampelle con i suoi piedi da Milanello, ho detto, è da escludere il tendine d'Achille, perché altrimenti avrebbe gridato come un pazzo e non avrebbe potuto nemmeno appoggiare il piede per terra. E quindi l'aspetto più grave è così, è stato escluso. Io aggiungo un'altra cosa: se ci fosse stato il Milan di una volta, secondo me domani, massimo dopodomani, avrebbero mandato qualcuno a casa di Ibrahimovic a fargli firmare il contratto del 2020-2021. Perché dico questo? Perché questo era il modo di agire del vecchio Milan berlusconiano. Questo è, tra l'altro, al di là delle sue condizioni fisiche, una delle esigenze del Milan, soprattutto se prende piede il programma di ulteriore rinnovamento, ringiovanimento, svecchiamento e soprattutto di mandando a casa definitivamente tutti gli altri rappresentanti del Milan di Fassone e Mirabelli. Beh, allora questo è quello che ci vuole, anche se non sarà utilissimo sul campo. Secondo me sarà utilissimo. Il problema è che, a voler essere ipermaliziosi, se l'infortunio fosse stato più grave, sarebbe stata per una buona occasione, perché Ibrahimovic non vuole più, per dire vabbè, è stato bello anche se breve, arrivederci, grazie, che è cosa che comunque io temo succederà, Fabrizio. Sì, perché allora questo è un problema ovviamente per il giocatore, è un bel problema per il Milan, perché il Milan non ha pensato a un presente senza Ibrahimovic. A gennaio ha venduto Piontek e non c'è un'alternativa. Sì, c'è Leao che avrà la sua occasione, ma in questo momento si prospettano 12 turni di campionato, speriamo che vada tutto bene. Io non riesco a immaginare Ibra che rientra il brevissimo periodo, perché il polpaccio, ragazzi, anche quando c'hai 20 anni, il polpaccio minimo sono 1-2 mesi. Sì, non c'è dubbio. Il fatto è che i dubbi sono sulla volontà, per Luigi, ne abbiamo già parlato a lungo, di confermare Ibrahimovic nel nuovo Milan tedesco che si va disegnando. Ma hai detto bene te, cioè la sensazione è che la società non abbia tutta questa intenzione di arrivare a un rinnovo e possa cogliere anche la palla al balzo. Dispiacerebbe. Poi magari parliamo anche delle considerazioni di Castaldello di ieri, che secondo me hanno un fondo di verità. Cioè, adesso buttiamo in campo i giocatori ed è giusto farlo, perché bisogna mettere in tasca i soldi ed è giusto far ripartire la macchina, ma c'è un pericolo evidente legato alla condizione fisica di questo quello. Sì, anche se in questo caso, Pier, Ibra è stato l'unico caso in Italia di giocatore, appunto, che è reduce da un periodo di allenamento quasi normale, Pierluigi. Pier? Pardo? Te lo dico io, Carlo. Sai cosa diceva Costanzo? Cosa diceva? Se non ti alleni e non fai sport, sicuramente non ti fai male. Sì, io dico questo. Guarda, io... Allora, intanto il polpaccio, il solido dove si è procurata quella lesione, secondo me non è proprio recentissima, ma è legata all'inizio dell'anno, perché già quando è arrivato a gennaio lui aveva saltato la partita col Verona proprio per un fastidio. Probabilmente in quella circostanza, come tutti, nella evoluzione di questi casi muscolari, c'è stato qualche fibra muscolare che si è sfilacciata. E poi quando lui ha ripreso, tra l'altro facendo anche partite, non soltanto parte atletica, a Stoccolma, secondo me lì insomma è peggiorata la situazione dal punto di vista muscolare, e appena ha forzato arrivando in Italia c'è stata la lesione. Sì, certo. Io però, conoscendo i tempi di Ibrahimovic, veramente vi scongiuro e vi invito a essere molto prudenti sul carriera finita, campionato no, finito. Carriera finita, campionato finito, Franco, sarebbe molto sorprendente se, insomma, poi ci fosse in ballo una Champions League, ci fosse in ballo... Ma sapete quello che c'è in ballo? La sua convinzione di essere in grado di recuperare in tempi record. Sì, dicevi, Pier. Infatti secondo me questo infortunio non è che può cambiare il presente del Milan, per queste 12 partite e sicuramente non lo cambia, come diceva giustamente Fabrizio, in meglio. Però poi per quanto riguarda il futuro, secondo me non, anche io non sottovaluterei Ibra, la sua voglia. È chiaro che per un giocatore non più giovane, insomma, ogni complessità, ogni problema rappresenta un impaccio non da poco. Io credo che possa essere un asset, lo dico, per il partito anti-Ibra, o comunque per quelli sì, che certo, lo considerano certo, onestamente sostituibile. Io credo che questa sia un'opportunità, insomma, sia un assist. Sì, lo credo anch'io. Invece sul Milan c'è un problema più complessivo di progetto che, insomma, non... E poi chiaramente... lo approfondiamo, io credo, perché ancora non sono chiare le linee del progetto futuro e questo credo sia ancora più urgente e forse imbarazzante della stessa assenza di Ibrahimovic. Invece, quanto alla I che citavi, Pierluigi, sì, c'è il rischio di infortuni, anche Fabrizio ha citato interviste di Gastaldello, tutto quello che vuoi, c'è il rischio di infortuni, però spiegatemi una cosa. Scusate. Sì. Allora, voi dovete, come dire, tra virgolette, decifrare bene le interviste, da dove arrivano e cosa vogliono dire. Allora, Gastaldello è giocatore di 35 anni. A fine carriera. A fine carriera e a fine contratto. Probabilmente avrà un futuro da dirigente nel Brescia di Cellino. Scusate, quello che lui dice, lo dice per dare voce al pensiero di Massimo Cellino. Ora, noi, voglio dire, non siamo nati ieri e quindi obiettivamente non abbiamo nemmeno il foro al naso. Io personalmente mi sono controllato 2 minuti fa, non ce l'ho e non porto l'anello. Franco, ma tu escludi che tanti giocatori la pensino come Gastaldello e non dicano niente, perché facciamo così, non diciamo niente, altrimenti ci dicono che siamo giocatori viziati. Sì, che non, però Fabri, ti dico una cosa, mi spieghi qual è la differenza? Il problema, hanno tutti ragione, come direbbe il maestro Sorrentino, nel senso che ha ragionissima, e infatti lo stavo per dire io, è chiaro che è l'intervista di un giocatore che potrebbe avere un futuro, un giocatore che io stimo, un giocatore intelligente, che dice una cosa secondo me assolutamente legittima, però è chiaro che in questo momento, se tu senti i giocatori della Lazio, vogliono tutti giocare, se senti quelli del Brescia magari sono un po' meno, quindi cioè, è ovvio che in questa vicenda, ma ripeto, è legittima, è la natura umana, c'è chi è più motivato e chi è meno motivato, fa parte della vita e delle ragioni di classifica più che delle ragioni di Stato. Detto questo, il tema c'è, secondo me, il tema c'è, e siamo ampiamente lontani dalla normalità. I rischi ci sono, io non faccio il virologo, ma forse arriveremo al punto di pensare che il rischio sarà più per gli infortuni muscolari classici da calcio, però ti dico due cose, che non abbiamo problemi di coronavirus, però spiegami questo, forse il problema sarà più quello. Però spiegami questo, Pierluigi. Allora, punto primo, io credo che i giocatori professionisti rischino ogni giorno di più stando lontani dal loro lavoro, cioè dall'attività agonistica vera e propria, punto primo. Punto secondo, mi spieghi quale differenza c'è dal punto di vista della preparazione rispetto ad un inizio di stagione, quando soprattutto ci sono spesso squadre che fanno l'allenamento e poi salgono, fanno un allenamento e poi salgono sulla scaletta dell'aereo. No, la quantità di impegni, nel periodo giugno, luglio, agosto, mettendoci dentro anche le coppe, è senza precedenti. Questo va detto, perché insomma, se no non siamo intellettualmente onesti, e invece a me proprio me ne frega niente, come sai, se si gioca o non si gioca dal punto di vista personale. Quindi questa è una situazione onestamente senza precedenti. Però è sbagliato, per l'Italia è un paese. È sbagliato che non ti freghi niente se si gioca. No, vabbè, una battuta, dai Franco, nel senso, voglio dire, io spero che si giochi perché mi piace il calcio, perché è il mio lavoro, eccetera, però insomma non, tanto per essere chiari, non è che c'ho mi danno, non lo so, i bonus se riparte il campionato, ecco, non mi cambia niente, quindi da questo punto di vista non mi cambia niente. Poi mi auguro che si giochi perché è il mio lavoro, è la mia passione e perché fa parte dell'economia, tutte le cose che abbiamo detto mille volte. È onestamente senza precedenti. Questa situazione qui è onestamente senza precedenti e porterà, secondo me, nei limiti del possibile, ad adottare delle misure senza precedenti. Giochiamo pure a mezzanotte se si abbassano le temperature. Non so come dirti, chi se ne frega delle 16:30, ma chiaro, ma 16:30 ogni giorno è uguale a un altro. No, 16:30 non è, credo sia anche una possibilità, un'opzione che è già stata scartata, mi pare. Però non è questione di orario, l'orario si concorda. Il discorso è, ok, c'è un rischio di infortuni è vero, ci saranno impegni molto ravvicinati eccetera eccetera, però credo che il tempo congruo per mettersi minimamente in condizione di fare delle partite di calcio ci sia stato, Fabrizio. No, allora, sicuramente non bisogna drammatizzare, cioè si gioca a calcio, si torna in campo, si fanno queste partite e almeno riattiviamo la macchina, non ci sono problemi. Però dobbiamo prendere in considerazione tutti i rischi, no? Come li prendiamo in considerazione per l'ipotesi di contagio, dobbiamo prendere in considerazione anche per professionisti che tendenzialmente scenderanno in campo per dare il 100%, secondo me non ce la fanno. Ma se tu scendi in campo per dare il 100% e giochi una partita, riposo un'altra partita, giorno di riposo un'altra partita, è vero che aumenti a dismisura il rischio di infortunio. Oggi c'era un bell'articolo sul Corriere della Sera, non lo dico io che non conto niente, c'erano esperti che ti dicono che anche in Bundesliga dopo due sole giornate il livello di infortuni è aumentato, se non sbaglio, del 60%, nel senso che ogni squadra ha i suoi tre infortunati già adesso. E quindi è evidente che ci sono dei rischi, bisogna cercare di ridurli al minimo, come con i 5 cambi, sì, con le partite magari non alle 4 ma alle 10 in avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sicuro, penso siamo tutti d'accordo, anche Franco. Sì, no, io colgo delle contraddizioni e obiettivamente dei ragionamenti che insomma in qualche modo mi spaventano, perché secondo me nascondono un non detto abbastanza clamoroso. Allora, innanzitutto i 5 cambi. Scusate, ma abbiamo una media di rose composte da 20, 22, 23, 25 giocatori. Io non capisco perché anche coloro i quali non hanno come dire, rincalzi all'altezza della situazione, ma perché mai ne paghino 23-25, allora, se non sono in grado di poterli schierare e di poterli far giocare, per quale motivo li hanno tesserati? Obiettivamente questa è una scusa, così come è una scusa quella della a favore dei 5 cambi. Tutti siamo a favore dei 5 cambi, però posso capire che l'allenatore del Lecce o del Brescia o della SPAL, quando va a giocare contro una grande squadra che ha una panchina molto più profonda, quando guarda la panchina, sono grandi squadre che poi anche nel secondo tempo ti mettono una detto, formazione. Detto questo, sono a favore perché credo che questa cosa qui, la stessa distanza tra la panchina del Lecce e la panchina della Juve, cioè tra la squadra titolare del Lecce e la squadra titolare della Juve. Però c'è una differenza, Franco, che il Lecce magari sui 90 minuti tiene botta e porta a casa il pareggio. Qual è la differenza? Che magari sai, è la differenza è che con i 5 cambi la Juventus gioca al 100% tutta la partita, senza problemi. La Juventus, l'Inter, anche la stessa Lazio. Ma detto questo, io sono a favore, poi a parte che è stata validata a livello internazionale, credo che... sono a favore, nel senso che credo che ci sia un elemento, scusa Franco, credo che ci sia un elemento prevalente che riguarda la incolumità dei giocatori e tutto quello che può essere fatto per cercare di scongiurare gli infortuni, per cui alla fine io sono d'accordo, però posso capire il punto di vista di un allenatore di una squadra piccola che sa che serve un'impresa per 90 minuti per fermare l'avversario, magari 70 minuti tieni e se quelli poi fanno entrare, non lo so, Lautaro piuttosto che da un'altra parte lo nascosta e tu, ma adesso non faccio nomi, sì, va bene, chiaro, non ha la stessa profondità, allora allo stesso modo potresti dire giochiamo 70 minuti, no, cioè vale tutto. Detto questo, va bene, è giusto così, è un protocollo internazionale, l'interesse prevalente è la salute. Certo. No, io penso certo che l'interesse prevalente è la salute, ma è altrettanto evidente che nel protocollo della carriera di un calciatore c'è anche la possibilità, il rischio professionale di un infortunio muscolare. E quindi da questo punto di vista non capisco, il problema vero. Secondo me, ripeto ancora una volta, qui dietro, capisco l'obiezione sull'orario, quella è... Vabbè, ma quella, Franco, ma su è la quello stessa cosa come se chiedessero a te di scrivere 5 articoli, è più facile che il quinto ti venga una ma certo, Fabrizio, perché... certo. Sì, ma non farlo su di me che sono, l'ultimo... Sei Libra del giornalismo, te. No, tu sei un Libra. Uno lo tiene, lo metti in panchina, lo fai entrare in caso di necessità. Io dico soltanto questo, che per fare questo lavoro che mi piace da impazzire, tornare a vedere una partita di calcio che ha fatto parte della mia passione da bambino e poi è diventato anche per fortuna il mio lavoro, e io non, come dire, ho fatto anche delle cose che diciamo si possono fare tranquillamente. Non mi sembrava di essere eroico andando per esempio a Sarajevo durante il casino della guerra dei Balcani, oppure accompagnando la nazionale di Beanzotti in Libano. Io dico soltanto questo, che da questo punto di vista esistono dei rischi professionali, e questi sono, secondo me, non... Sì, sono d'accordo. Sono dei rischi professionali che ti assumi, e fa parte della... Soprattutto esiste un coordinamento internazionale. Certo, esatto, esiste un coordinamento internazionale. Quando poi cominciano a giocare in Germania, in Inghilterra, in Spagna, sì, va bene, in Francia non si gioca, però insomma, diciamo, mi sembra che la maggioranza del calcio che conta si stia muovendo in quella direzione lì. Questo non è un dettaglio, ragazzi, perché rischia di trasformare dal punto di vista strettamente economico e di competitività delle squadre, che poi è un tema che interessa ai tifosi perché si vogliono alzare le coppe o si vuole essere competitivi, ma interessa soprattutto ai conti del calcio italiano e quindi a quelle 89.000 persone che fanno parte della filiera, perché poi va tutto a cascata quel meccanismo lì. Sì, sicuro. Va sugli altri sport e va sulle categorie minori dello sport del calcio, quindi nel momento nel quale quasi tutti vanno in quella direzione lì, i campionati più importanti, tant'è vero che il presidente Lione è arrabbiatissimo, e in Francia c'è un fronte di società che sono molto arrabbiate sull'idea. Sì, c'è anche un fronte di società che rischia la vita professionale. Che è tutto normale, che una partita ogni tre giorni è la cosa più semplice del mondo, no, che è complicato, i calciatori devono essere tranquilli e sereni, francamente no. Complicato, è una cosa complicato. Che si porta dietro dei rischi. Alternative però purtroppo non ce ne sono. Non esistono. Beata l'NBA che gioca a Disney World e fa tutte le grandissimi. Senti, ma lasciami che mi tolga una curiosità con Biasin. Mi sembra che la mia sensazione non riguarda questo fronte, ma quello del futuro dei programmi, poi affrontiamo anche quelli del Milan. Mi sembra che l'Inter sia in questo periodo un po' impegnata ad elaborare il distacco da Lautaro, che pare inevitabile. Mi sbaglio? Allora, non è sicuramente un'operazione banale, no? Se ne va via un giocatore che tendenzialmente vale 100 milioni e poteva essere anche il futuro della squadra, e quindi devi stare molto attento. Cioè, è un po' quello che però Marotta ha fatto anche alla Juve nel corso degli anni, cioè rinunciare al giocatore più forte e riuscire in contemporanea a rinforzare la squadra. Io non ho idea se Lautaro andrà via, cioè la sensazione è quella, però devono trovare l'incastro giusto. Il Barcellona 110 milioni da mettere sul piatto non ce li ha, e quindi deve trovare una formula accattivante. Nel frattempo, giustamente, l'Inter prova a studiare l'alternativa. Non è semplice, perché di fianco a Lukaku non ci puoi mettere, secondo me, il giocatore, per quanto forte, alla Cavani. Cavani mi piace tantissimo, ma secondo me non può essere l'alternativa a Lautaro. Devi pensare a un giocatore magari un po' più giovane, tendenzialmente fortissimo, alla Timo Werner, che però piace a tutti quanti, soprattutto al Liverpool. Sì, soprattutto al Liverpool, e al Milan arriverà Ragnik, ma si portasse dietro Timo Werner, no? Ma vabbè, io penso questo, secondo me da questo punto di vista bisognerà proprio capire questo. Io immagino che comunque non voglia fare la figura di quello che dopo 4-5 mesi a San Siro cominciano a fischiare, cominciano a brontolare e magari finisce con un tumulto di da parte dei tifosi. 4-5 mesi, stai parlando di Ragnik? Sì. 4-5 mesi sei di manica larga, secondo me. No, io dico 4-5 mesi. Giampaolo 15 giorni dura. Poi soprattutto, secondo me, bisognerà chiarire in fondo bisognerà chiarire che cosa. Allora, chiarire come viene lui, perché da quello che si capisce lui vuole venire per avere carta bianca e per soprattutto per incidere dal punto di vista della guida dell'area tecnica. Auguri. Per cui vorrà dire che avrà bisogno di un allenatore, quindi la scelta intanto vuol dire che tu per un ruolo solo ne paghi due, e poi voglio capire chi sarà l'allenatore, che comunque qui in Italia... Ma secondo te, Franco, Pioli ha una speranza oppure no? Pioli secondo me non ha speranza, a meno che Ragnik non si convinca che vista la personalità di Pioli, visto soprattutto il suo comportamento, io devo dire che al di là di quelli che saranno i risultati prossimamente, per come si è comportato e per come l'hanno fatto lavorare mettendogli addosso delle pressioni incredibili, secondo me si è comportato da fuori classe. Concordo. Da come regge le pressioni, le tensioni e anche i contraccolpi di quello che scrivono i giornali, di quello che dicono le televisioni e i siti. Sì, si tratta di capire che cosa vuoi dalla vita se ti chiami Milan, no? Perché non, certo. Questo non è chiarissimo. Va bene Ragnik, va bene confermare Pioli, va bene prenderne un altro, però no, l'obiettivo il problema non lo vedi. Carlo, la mia sensazione, ma magari mi sbaglio, è che quando si sveglia al mattino il, definiamolo, signor Elliott, il primo pensiero è la moglie, il secondo pensiero è la famiglia, il terzo pensiero è la prima azienda, il quarto pensiero, il cinquecentesimo pensiero è il Milan. Sì, sì, sì, sì, siamo no, a quei livelli lì. Scusami, guarda Fabrizio, ti sbagli di grosso, ma non perché il secondo pensiero di Elliott sia il Milan, ma perché una società in quella galassia, una società che perde quasi 100 milioni all'anno, è una cosa che non fa dormire di notte nemmeno se hai a fianco. Sì, però non mi sembra che ci siano dei piani così precisi e chiari per no, evitare queste perdite. No? Il loro piano qual è? Trovare un compratore. Ho capito, ma così ogni giorno che passa il prezzo cala. Per il momento non puoi trovare nessun compratore perché non c'è nessun compratore che compri alle cifre che vogliono loro. Il loro piano è questo: per la prima volta comandano loro sul serio, comandano da A alla Z e quindi anche nell'area tecnica, e per la prima volta hanno il volante in mano della squadra, anche dal punto di vista non solo amministrativo ma anche tecnico. Quindi noi per la prima volta adesso non potranno dire ma Leonardo ha comprato Paquetà e sì. Piontek e la Boba Remaldino ha sbagliato il mercato tutto. Sì. Capito? Per la prima volta diremo: signor Elliott, dove sei? Vieni qua che te ne canto 4-5. E lui ti dice: io non mi faccio vedere come ho fatto fino adesso. Sì, esatto. Sì, esatto. Manda avanti Gazzidis. Un nascondino, però sì, mi sembra il momento della svolta da questo punto di vista. Nel senso che dopo una fase nella quale c'è stata una sorta di rispetto, no? per la storia rossonera, per le bandiere rossonere, per l'idea di gestire chi la parte amministrativa e chi la parte tecnica, mi sembra veramente l'all-in del gruppo. Possibilità che riesca, non lo so, mi manca la palla di vetro e onestamente... Guarda che nemmeno la palla di vetro prevede può farti prevedere se riescono oppure no. quindi è inutile. Si rifiuta pure la palla di vetro! Pensate. Vabbè ragazzi, saluto tutta l'allegrissima compagnia. Ciao a tutti. Ciao, mando la borsa e poi vorrei parlare di, in attesa della serie Ordine Biasin, di quella che è uscita negli Stati Uniti che riguarda Lance Armstrong, che secondo me è piuttosto scioccante. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Convocati. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. The truth, this is how you feel. Say it to me. I want the truth from you. Leo Turini, buongiorno. Buongiorno, come andiamo. Bene, anche se il tuo congiunto Leo Marino Bartoletti oggi ti ha mollato, No, dov'è? Non c'è. Si è dato, se non lo sai tu, come faccio a saperlo io dov'è? Io temo che sia salito sui rulli con Carapaz per raggiungere l'amata zia dell'equadoregno. Questa è una notizia che mi getta nel più cupo conforto. Però devo dire che qui sulla Pero Cormano in coda stanno accadendo scene terribili. Posso dirtelo? Come no? C'era un automobilista che boccheggiava dicendo: 3 mesi che non sento la telecronaca di Pardo, sono in crisi di astinenza, hai capito? Cose spaventose. Devi fare qualche cosa, caro Genta. Sì, allora, vabbè, quando torna la Serie A, quando torna Genta? Il 13, potremmo vederla al 13, al più tardi il 20, e comunque non prenotare le vacanze, mio caro Turrini. Però dato che ti voglio bene, ti ho trovato un compagno all'altezza. Sentiamo un po'. Pier Bergonzi, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao. Vabbè, caro Pier, no, diciamolo per chi segue distrattamente questa trasmissione, è un onore avere Pier Bergonzi al microfono. Grazie, Leo. Senti, ci incrociamo ogni tanto sulle strade del mondo, soprattutto alle Olimpiadi, e poi una volta all'anno, tanti anni fa, ci incontravamo a Castiglione Olona con il club Ferrari. I nostri amici Ferrari Club di Castiglione Olona, ognuno, è un'istituzione. Ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio, perfino Pier Bergonzi, che è uno dei piloti giornalisti. No, devo dire che insomma abbiamo sentito nell'incipit le famose parole di Armstrong di tempo fa, che avevano fatto grande rumore. Ora c'è questo documentario che viene trasmesso da ESPN. Se Les Dance aveva raccontato una favola, Lens, il titolo di questo documentario, racconta un dramma pazzesco. E devo dire che oggi, leggendo le prime righe dell'articolo su Corriere della Sera, che racconta di questa serie, tutta l'America quantomeno sta vedendo, sono queste, aperte virgolette: non mi costava nessuna fatica a mentire, ho detto migliaia di bugie, ero convincente, mentivo guardandoti dritto negli occhi. Io dopato, come osi pensarlo? Bugia e arroganza. Ero un animale da corsa. Quando scendevo dalla bici non avevo idea di come gestire un rapporto umano. Ora, leggendo queste righe, io ho pensato al mio amico Pier Bergonzi, perché di Lance Armstrong, no, posso dire, è amico, è stato amico, comunque è stato uno dei giornalisti a lui più vicini negli anni delle corse. Beh, mi sei venuto in mente tu. Hai fatto bene, non sai quante volte è venuto in mente anche a me. Allora, io conosco Lance Armstrong dal 91, quindi ormai sono quasi 30 anni. Era venuto in Italia, ha stravinto la settimana bergamasca, poi ha abitato a Como per qualche tempo, è stato più di un anno a Como, quando è diventato campione del mondo nel 93. Aveva 21 anni, era stato uno dei più giovani campioni del mondo in assoluto ed era un talento pazzesco. Ma quello che più mi è rimasto impresso di tutta questa frequentazione con lui è la sua smodata voglia di arrivare, la sua determinazione, era disposto a qualsiasi cosa pur di battere gli altri. Non ho conosciuto nessuno in 35 anni di carriera con la sua personalità, forse Marco Pantani, l'unico che se la gioca con lui per carisma e personalità. E non mi stupisce quello che sta dicendo adesso. Io che gli sono stato amico, ho ancora modo di sentirlo, quando ogni volta che viene in Italia mi chiama, però non posso non dire che è stato il più grande inganno nella storia dello sport. E questo finalmente lo ha capito anche lui. Sì. In quegli anni era incapace di avere rapporti umani, quello che dice. Cioè ha trattato malissimo i suoi compagni di squadra, i suoi amici. E un altro piccolo ricordo personale che vi posso dare, perché ormai lo ha rivelato lui, 8 anni fa è venuto in Italia, mi ha chiamato, voleva incontrare Simeoni, l'ho accompagnato io a Roma ed è andato da Simeoni per scusarsi. Filippo Simeoni non ha voluto rivelare, e io ho dovuto attenermi anche a quello che chiedeva Filippo, perché per Lance era veramente un momento importante e aveva bisogno di scusarsi con lui per quello che era successo al tour, e da allora hanno voluto che non se ne parlasse. Io sì. Mi sono comportato correttamente, certo. Non ho mai parlato. Adesso è Filippo stesso che ha raccontato questo fatto. Allora, c'è qualcosa, io spero che sia cambiato davvero l'Anse, o comunque ha la capacità adesso di rivedere quegli anni e capire quanto male ha fatto al ciclismo, ai suoi amici, a tutti noi e a se stesso. Sì, è una grande forma di pentimento, però sentire uno che ti dice ti stavo guardando negli occhi e ti stavo raccontando una bugia, questo è abbastanza forte. Leo Turrini ha scritto Il cowboy e il pirata che tutti abbiamo letto, no? Sì, certo, sì. Viene in mente Leo Armstrong, ma anche Ulrich, di cui Armstrong parla, Pantani, una grande generazione di superstar maledette. Ma io, guarda, contrariamente a Pier, non l'ho conosciuto questo cowboy americano. Io ho sempre trovato da fuori, senza conoscere quello che poi abbiamo scoperto, un eccesso di arroganza che non me lo rendeva umanamente simpatico. L'episodio di Simeoni, che Pier giustamente ha evocato, fu qualcosa di terribile. Cioè, quella fu proprio l'ostentazione dei metodi, come lo stesso Armstrong oggi riconosce, di un atteggiamento da boss mafioso. Quindi io sì, non bisogna mai escludere la possibilità di una redenzione, per carità, però francamente io lo dico da comune mortale, da uomo della strada, va bene, voglio sforzarmi di essere misericordioso come dice Papa Francesco, però si fa fatica a perdonare Armstrong non per il discorso del doping, che Pier lo sa perfettamente, era una piaga in quel tempo che non risparmiava nessuno nel ciclismo e non solo nel ciclismo, ma è difficile perdonarlo per la mistificazione che da parte sua ha messo in atto per anni. E quando è venuta fuori la storia, poi non è stata approfondita ma è documentata, che dopo il Tour del 2000, quando Pantani staccò Armstrong il giorno della sua ultima vittoria, l'arrivo a Courchevel, i manager di Armstrong misero come condizione a quelli del Tour che Pantani non ricevesse la wild card per le successive edizioni della corsa gialla. Beh, insomma, lì c'è qualcosa di intollerabile, voglio dire. C'è proprio l'ostentazione del boss mafioso, e questo, fermo restando, ripeto, si topavano tutti. Per carità, Piero lo sa meglio di me, poi magari ve lo spiega, però lì siamo oltre, siamo veramente oltre. Questo rende il tutto molto molto triste, anche nelle ammissioni. Sì, anche nel tentativo di perdonare umanamente. Fermiamoci per il traffico e poi sentiamo cosa replica Pier Bergonzi. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. A proposito di quanto diceva Leo Turrini e del disprezzo di Armstrong per i rivali, lui dice: li odiavo questo stringersi le mani, darsi pacche sulle spalle, odiavo la loro ipocrisia, amavo solo Jan Ulrich, mio grande avversario. Venivamo entrambi da famiglie sfasciate, abbiamo vinto tutto col doping e poi gettato al vento fama, denaro, matrimoni, diventando due reietti. Dice Leo, hai sentito Pier, diventa difficile così perdonare chi confessa in questo caso, perché ci sono delle cose che sinceramente e umanamente ti viene un po' difficile perdonare. Ma ha ragione, cioè, sul piano sportivo non c'è redenzione, sul piano umano la possibilità di pensare che uno capisca di aver sbagliato tutto nella vita è giusto dargli, io una seconda chance la concedo di tutti, anche a Armstrong, figuriamoci. Sì, sì. E l'altra cosa è il contesto in cui sono accadute quelle cose, perché in quel momento lì, cioè nei primi anni 90, purtroppo, lo dico, non ho prove, quindi non è che posso andare oltre, ma l'epoca era talmente diffusa che l'intero gruppo, tutti i professionisti di quel periodo in qualche modo ne facevano. Allora poi la domanda è sempre: ma a parità di condizioni, Armstrong, Pantani, Urich avrebbero vinto lo stesso quello che hanno vinto o no? Allora, naturalmente non c'è controprova, non c'è risposta. Io ad esempio mi sono innamorato dell'idea che Pantani avrebbe vinto molto di più a parità di doping, perché in salita era assolutamente tre spanne sopra tutti gli altri. Di Armstrong sono innamorato dell'idea che sarebbe stato uno straordinario campione da corse di un giorno, avrebbe vinto tutto nelle corse di un giorno, più mondiali, Milano-Sanremo, Liegi-Bastogne-Liegi, Fiandre, tutte le corse di un giorno. Ho qualche dubbio sulle corse a tappe, perché in salita non sarebbe andato così forte, probabilmente a cronometro sarebbe stato superiore, ma sì. Tutti i discorsi che facciamo un po' accademici, quello che rimane è quello che hanno combinato in quel periodo. Allora Armstrong, grazie al suo talento di atleta, perché questo tutti glielo riconoscono comunque, e alla sua cattiveria agonistica, direi arroganza, ragioni, in molte situazioni è stato proprio arrogante, era sprezzante nei confronti di tutti, degli avversari, dei giornalisti in genere. Io ho avuto un rapporto privilegiato con lui, se volete, ma era sprezzante con tutti. Non sono d'accordo sul tour del 2001 con Leo Turrini, perché poi questa è la favola che ci conviene raccontare. In realtà Armstrong stimava enormemente Pantani e aveva piacere di avere Pantani come eventuale sconfitto battuto. Fu il Tour de France a volere Pantani. Qui vi dico un piccolo aneddoto, sì, altrettanto personale. Loro hanno litigato al Tour del 2000, no? Quando sì, c'è la famosa arrivo sul Mont Ventoux, Armstrong lascia la vittoria a Pantani e Pantani si arrabbia perché non si considera trattata alla pari. Sì. Lui dice: un campione, se poteva vincere, doveva vincere e battermi. Io non accetto regali da nessuno, neanche da Armstrong. Sì. Poi lo batte alla Régulière a Courchevel e lì inizia una bella battaglia. Armstrong, per prenderlo in giro, lo chiamava Dumbo, l'elefantino, per la sventola. Pantani lo chiamava Robocop. E andiamo alla Vuelta a Murcia del 2001 e mi chiama Armstrong, mi chiede: voglio incontrare l'elefantino. Io ero nello stesso albergo di Pantani, gli dico: Marco, guarda che ti vuole parlare Armstrong. Dico: ma cosa vuole da me Robocop? Cosa vuole il texano? Dico: non lo so, vuole parlarti. Ci incontriamo insieme una sera al Rincon de Pepe, davanti a un bicchiere d'acqua minerale e una limonata, e vi assicuro che è stata una serata straordinaria. C'era Mondini con noi, che faceva da traduttore per Pantani, perché Pantani poi non si fidava. E Armstrong gli ha raccontato di quanto fin da ragazzino fosse innamorato di Pantani, fin da quando era venuto alla Bergamasca, e gli diceva: guarda, non dimentica di tutti i problemi che hai col doping, con le inchieste, abbiamo ancora 3-4 anni, 5 anni in cui io e te vinceremo tutto, poi ci troveremo su una spiaggia del Messico a bere margarita insieme e ci ricorderemo ridendo di questi momenti. Si abbracciano e Pantani è sicuro di poter andare al tour quell'anno. In realtà, siccome lui era stato espulso dal Giro d'Italia l'anno prima per l'ematocrito alto del 99, 10 anni prima, non era andato lui al tour. È il Tour de France che alla fine non lo vuole più. E dietro poi viene facile pensare che sia stato Armstrong a non volerlo. Questo, almeno fino ad ora, anche nelle ultime rivelazioni, lui l'ha sempre escluso. Beh, almeno questo, io ringrazio Pier Bergozzi per questo meraviglioso racconto, Leo, ma lo ringraziamo insieme perché almeno quest'ombra viene tolta, no? Ma io, guarda, quando parla Pier di ciclismo, io mi taccio e mi inchino. Faccio fatica a concedere però, diciamo così, una soluzione preventiva, cioè dire: ah, ma siccome dice che non l'ha fatto, allora non l'ha fatto. Abbiamo cominciato la nostra conversazione col fatto che lui stesso si dichiara il più grande bugiardo della storia dello sport, quindi sì, io sì, penso tutto, dire, tutto possibile, tutto possibile. Siccome tutto dice possibile. Che quello non è vero, non lo so. Ecco, io mi ricordo una cosa per merito della Gazzetta dello Sport. Finisce il Giro d'Italia del 2003, l'ultimo che Pantani ha corso. C'è la cosa Rai del dopogara, fanno una domanda a Pantani sul palco e lui risponde dicendo: io non ho niente contro Armstrong, un ciclista, ma lui ha troppo potere. C'è anche su YouTube, quindi a cosa si riferisse con quella frase lì, Secondo me aveva capito, poi ognuno è libero di rispettare la versione che preferisce. E vorrei dirvi da Piero Cormano che comunque io mi do torto da solo e accetto la versione di Pier Bergoglio. No, no, detto questo, siccome di bugie ne ha raccontate talmente tanto e non finisce mai di sorprenderti, anche da quel punto di vista è tutto possibile. Chiudo dicendo che fa veramente impressione vedere come ESPN negli Stati Uniti abbia appena finito una delle serie più straordinarie dello sport con Michael Jordan, che sul piano della determinazione e della cattiveria agonistica non era secondo neanche ad Armstrong per come trattava e caricava gli avversari, ma è diventato una specie di dio in terra, e come invece Armstrong sia esattamente agli antipodi e sia il campione senza possibilità di redenzione per tutto quello che ha combinato. Dentro, se volete, c'è anche tutto quello che rappresenta l'America nello sport. Sì, verissimo. Pierre, ti ringrazio tantissimo, davvero. Grazie, grazie a voi. A presto, Pier Bergonzi. Beh, Leo Turrini, chiudo anche con te. Se incontri il tuo congiunto, salutamelo. Cosa vuoi che ti dica? Ma non lo so. Speriamo che Bartoletti torni. Ma sai, adesso in questo clima di tana liberi tutti, anche Marino doveva avere dei congiunti. Da visitare, no? Però noto una punta di delusione o di disillusione. È stato come un tradimento, hai capito? Io ho tenuto duro tutto. No, ma ti capisco. Sempre con Marino Bartoletti e Carlo Genta, e va a finire che la prossima volta non ci sarai neanche tu. No, perché riaprono e chissà voi, beati voi. No, beati noi niente, caro mio. Speriamo di ritrovare Bartoletti. Se no proviamo a chiamare Carletto Leclerc, magari qualche spazio in agenda gli resta, no? Tra Armani. Bisogna tenere conto che Carletto fa molte cose che vanno dalla moda ai film di Lelouch, tutto. Attenzione però che fra 40 giorni corre in Austria. E io non vorrei che poi, tra moda e quant'altro, prendiamo mezzo giro di pista dagli uccelli. Bravo. Ne riparleremo. Altrimenti poi mando te a tirargli le orecchie, perché va bene tutto. Va bene Monte Carlo, le Ferrari, i film, il glamour, Caterham stasera, tutto quello che vuoi, però a questo punto pensi a guidare, che non manca tantissimo. Ciao Leo, ti abbraccio. Grazie. A presto, ciao Leo Turrini. Ciao. Io ringrazio anche Claudio Schiattone, Edoardo Lavezzari, Alessandro Marco Tulli oggi in assistenza, Roberta Frisani in regia con Gianmarco Ferronato. Tutti convocati domani alle 2. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti!